Siete sempre all'ascolto delle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Qui continuiamo la chiacchierata con Giampiero De China e lo continuiamo appunto questa narrazione attraverso la musica, come ci piace fare. E qui con Giampiero ci stiamo un po' sbizzarrendo con delle proposte da parte sua, e a te la parola, Giampiero. Cosa pensi di passare adesso? Adesso volevo far passare alcuni dei pezzi che ascoltavo specialmente quando iniziavo a imparare a suonare, cosa che in realtà non è mai successo, però sono rimasto sempre in una fase molto primitiva delle mie capacità musicali e quindi ascoltavo tanti dischi e poi ci suonavo dietro. Uno dei gruppi che più mi è piaciuto nei primissimi tempi in cui suonavano erano gli Adolescents, che erano una delle migliori espressioni della California hardcore nei 81-82. Questo è uno dei loro pezzi che mi piace di più, si chiama Amoeba. In our lab, looking through the microscope, the little glass eyes, they never lie. How can this fall my code? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back to stupid science world. This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead if you only knew your growing life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science world. This is reaching for the telephone. Invece il prossimo pezzo è del gruppo che da tutti è stato riconosciuto come la più nota fonte di ispirazione. Questo è totalmente vero, anche perché erano un gruppo di tre musicisti. Questa era una cosa veramente strana all'epoca, soprattutto perché tutte e tre cantavano e suonavano ai mille all'ora. E il loro primo disco è stato forse quello che più ci ha influenzato da sempre, è Land Speed Record, dove loro dal vivo hanno registrato il loro primo disco, che è una cosa veramente incredibile. Però questo pezzo che voglio farvi sentire adesso è forse quello che ha segnato un po' di più il momento in cui sono diventati, tra virgolette, un po' più adulti. A un certo punto loro hanno fatto una cover di un gruppo che si chiamava Birds. I Birds erano stati un po' la risposta americana ai Beatles, e erano anche uno dei primi gruppi che avevano un budget tale da potersi permettere dei viaggi in aereo tra un concerto e l'altro. E proprio pensando a questi viaggi in aereo, i Birds hanno scritto questo pezzo che si chiama 8 Miles High. Ancora un pezzo, questa volta invece ho pensato di scegliere un pezzo di un gruppo italiano, i nostri compagni di viaggio per un sacco di tempo, per un sacco di volte io e Marco di Negazione ci siamo trovati per scambiarci indirizzi, raccontarci le nostre storie, raccontare dove andavamo, cercare di mettere in comune veramente un sacco di contatti, sia per spostarci sia per far girare i dischi che noi ci stavamo autoproducendo esattamente come loro, e specialmente il loro primo 45 giri è stato forse il loro disco più sentito, insieme alla prima cassettina che si chiamava Mucchio Selvaggio, e questo è il loro pezzo che li ha portati in giro per tutto il mondo, quello che il pezzo li ha fatti veramente diventare famosi, si chiama Tutti Pazzi. We'll be right back. Un altro gruppo ancora che mi ha veramente molto segnato sono i Minutemen. Io non so quanti si ricordino ancora dei Minutemen. Erano arrivati per la prima volta in Italia nell'84 come gruppo spalla dei Black Flag. In quel momento lì nessuno li conosceva. E quando io ho chiesto, purtroppo non ho potuto andare al concerto dei Black Flag dell'84 a Milano, ma quando io ho chiesto, ma c'era qualcuno prima di loro? E gli altri miei amici che c'erano mi hanno detto, ma sì, c'era un gruppo funky. Il gruppo funk erano i Minutemen, mm-hmm. che in quel momento uscivano per la SST. Come mm-hmm. tutti sanno, i Minutemen sono stati il primo gruppo che ha messo in effetti funk con punk insieme. Insomma, sono stati sostanzialmente coloro che hanno iniziato a creare una strada che poi è stata seguita da un gruppo molto noto che sono i Red Hot Chili Peppers, ma i Minutemen sono loro che hanno inventato tutto questo. Una delle cose più divertenti che adesso ho visto è che il bassista di Minutemen è l'attuale bassista di Iggy Pop, e l'ho visto dal vivo prima dei Foo Fighters alcuni anni fa, e questo è un pezzo da un disco doppio che si chiama Double Dickens on the Time e si chiama This Ain't No Picnic. Chiudere con due gruppi. Ultimamente ho visto una manifestazione, una cerimonia che si è svolta qualche mese fa al Rock Hall of Fame, dove hanno premiato i superstiti di Nirvana, e c'era Chris Novoselic di Nirvana che ha detto, secondo me, una cosa molto intelligente quando alcuni gli hanno detto che i Nirvana sono andati verso il mainstream, ma questo non è vero, perché il mainstream è andato verso i Nirvana, che ha inglobato poi no? Che ha fagocitato, esatto, ma però c'è stato uno spostamento non nella direzione solita, dove qualcuno che vuole diventare famoso fa quello che tutti si aspettano, mm-hmm. Beh, a modo loro anche loro hanno disatteso le attese, cioè hanno fatto qualcosa di veramente assolutamente personale, e poi tutti quanti gli altri hanno detto, ah, però questo è bello e quello è diventato mainstream. Uno dei video che mi colpisce di più, c'è un concerto del 92 a Reading dove i Practical Nevermind era prima in classifica da qualche settimana, mm-hmm. Probabilmente loro avevano firmato il contratto per quel concerto prima che arrivasse quel tipo di successo, e c'è Kurt Cobain che suona Smells Like Teen Spirit, mm-hmm. e che intenzionalmente sbaglia il riff centrale, mm-hmm. perché era troppo banale farlo giusto, era veramente banale. Cioè, se vogliamo, anche se loro erano veramente famosi, veramente importanti, secondo me loro sono, tra virgolette, rimasti dei nostri, nel senso che loro hanno sempre avuto il gusto di disattendere. Esatto, di non fare quello che tutti si aspettano da te. qualche mese fa Dave, adesso Foo Fighters, in quella cerimonia ha detto una cosa molto importante. Ha detto: per lui è molto importante che i ragazzini che vedono quei manifesti attaccati sul muro non si facciano intimidire, ma che pensino: io voglio diventare come lui, no? Allora possiamo vederlo in modo business oriented, però non è così. È un po' come questa cosa che mi ha sempre fatto anche noi e che faceva Dave quando suonava con gli Scream, cioè scendere dal palco. Era normale per noi scendere dal palco, tuffarci dal palco durante i pezzi, la gente ci smontava la batteria perché ci caricavano. Lui, Dave ha vissuto queste cose, lui è queste cose. E ha capito questo il senso. I Green Day sono anche loro un po' questo pezzo qui, cioè io ho il loro primo 45 giri in vinile rosso, credo nella prima 1000 copie stampate originariamente, perché scambiavo i dischi con Lawrence Livermore, che è quello che aveva fondato la Lookout Records, e io e lui ci scambiavo i dischi molti anni fa, e mi era molto piaciuto. Lui scriveva delle columns su Maxim Rock and Roll, e a un certo punto, quando i Green Day non erano ancora quasi per niente noti, era uscito solo il primo 45 giri, e lui raccontava di questi tre ragazzini che uscivano per lui e che erano andati a suonare a una festa di compleanno di uno, e questa festa di compleanno si svolgeva in un garage, in un box, no? E nevicava molto, e questo posto era in collina. A un certo punto hanno dovuto fermare il loro furgone e fare con Marshall 1 chilometro di strada in mezzo alla neve. Bene. Per mettere il loro computer dentro al box e suonare davanti a 4 persone. No, questi sono i Green Day, no? Poi sono successe tante altre cose, ma i Green Day sono ancora quello. Cioè, se sapete, esiste un posto a Berkeley, loro vengono da Berkeley vicino a California, questo posto si chiama Gilman Street, ed è un posto che è un po' l'El Paso americano, no? E nessuno gruppo che abbia firmato per la major può suonare lì dentro. E i Green Day hanno suonato tipo 100 concerti quando suonavano, quando uscivano per la Lookout, ma nel 2004, quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra contro l'Iraq, loro hanno suonato in un grossissimo benefit, li hanno voluti lì, loro hanno voluto suonare lì, loro sono tornati a casa. E casa loro è anche il posto di cui parla il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo parla di uno squat a Berkeley, dove Billy Joe è andato a vivere quando è scappato di casa. E questo posto si chiamava, non c'è più, Paradise. E questo pezzo si chiama Welcome to Paradise. Welcome to Paradise, questa è un'altra proposta di Giampiero, questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9, dai! Welcome to paradise. E insomma, andiamo a chiudere qui la chiacchierata con Giampiero. Lo facciamo attraverso un altro brano che vi annunciamo tra poco. E magari non tutti se l'aspettano. E niente, noi qui a Radio Onda Rossa ringraziamo Giampiero. Non saprete mai perché è arrivato qui negli studi, però no, ve lo diciamo subito, insomma. Poi ci siamo persi o ritrovati in tante chiacchiere. È venuto qui a Roma, insomma, a presentare questo disco, questo libro che è uscito da poco, è Come macchine impazzite. E un libro scritto con Stefania Giacoboni, lo andiamo a presentare da amici qui vicino, quindi da Roberto. E vuoi salutare qualcuno, Giampiero? Beh, io voglio salutare tutti quelli che hanno avuto il coraggio e il fisico per ascoltare tutta questa lunghissima intervista, perché ci vuole veramente molta motivazione per reggere. Io spero che ce l'abbiate fatta. Noi abbiamo cercato di raccontare qualcosa che non potete sentire in altri posti tranne che qua. Grazie ancora, grazie a tutti e a tutti. Noi ci sentiamo, insomma, alla prossima volta. E l'ultimo brano lo annuncia Giampiero. Il prossimo pezzo è uno dei pezzi, secondo me, più terribili che abbiano mai scritto. È suonato in Nirvana, è Heart Shaped Box. I could